Ripeto ancora una frase che ho già detto ultimamente, ma l'ha detta il Papa, che la lettura degli Atti degli Apostoli è una lettura che merita di essere fatta da ogni figlio della Chiesa, perché racconta la vita della Chiesa, gli atti, le azioni degli Apostoli, e si può confrontare anche con i nostri giorni. Vediamo dunque quest'ultimo brano che conclude la lettura degli Atti degli Apostoli, che cosa ci insegna. Paolo è a Roma, è prigioniero ma a piede libero, gli arresti domiciliari, diciamo, perché ha potuto affittare una casa, anche se è guardato a vista da un soldato romano, però ha una buona libertà di movimento, addirittura può convocare alcuni notabili, alcune persone di peso della comunità ebraica a Roma, e si mette a parlare loro. Dal mattino alla sera esponeva loro il regno di Dio e cercava di convincerli riguardo a Gesù, riagganciandosi a Mosè e ai profeti. Alcuni credevano, altri invece no, alla fine se ne vanno via. E Paolo conclude con queste parole. Ha detto bene lo Spirito Santo in Isaia ai vostri padri: vada questo popolo e di udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, certo, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi perché non vedano, perché non ascoltino e non comprendano con il cuore e non si convertano, sì che io li possa guarire. Sia noto dunque a voi che questa salvezza di Dio in Gesù sarà inviata ai popoli, alle nazioni non ebraiche, ed essi ascolteranno. E così Paolo rimane 2 anni in questa casa che ha preso in affitto, insegnando, e poi alla fine subirà il martirio noto col taglio della testa e diventerà San Paolo. Che cosa ci insegna questo brano? Ci insegna che non basta la capacità che pure Paolo aveva, quanta gente ha convertito, quanta gente ha portato a Gesù, eppure tante volte non basta neanche quello, se uno è chiuso, se uno non è aperto. Se noi ben guardiamo, è il nostro mondo, amici, è il nostro mondo. Quanti annunci ci sono? La Chiesa le ha messe in atto tutte in questi 70 giorni di chiusura per pandemia. Ho visto preti che hanno percorso il paese a bordo di camioncini portando il Santissimo Sacramento, gente che benediceva dalla terrazza il paese, gente che ha messo in chiesa le fotografie dei parrocchiani per far dire ci sono spiritualmente, gente, la Chiesa le ha tentate tutte, e lodiamo Dio che c'è questa bella inventiva. Vedremo il risultato, amici. Se non capisco male, occorre ben altro per fare l'incontro delle persone con Gesù. Forse ritorneranno in chiesa la gente, speriamo, ma non vuol dire che uno ha incontrato Gesù. C'è ancora gente che mi scrive, mi telefona e dice: ma se sto a casa e faccio la comunione spirituale come faceva il Papa, non basta? Ma fa quello che vuoi, hai capito tutto dell'Eucaristia, vero? O gente che si ferma farisaicamente tipico dei farisei. Ma un prete ha detto che è sacrilegio se ricevo l'Eucaristia sulle mani e se il sacerdote la dà con i guanti. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, direbbe Gesù. Eppure, che cosa occorre, amici, per convertire le persone? L'abbiamo visto negli Atti degli Apostoli. Occorre lo Spirito Santo. E come viene lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo viene almeno in due modi. Primo, attraverso i santi. Basta che ti arriva un Don Bosco e ti fa una rivoluzione. Studiate la vita dei santi. Ti fa una rivoluzione a Torino. Sto leggendo la vita di Don Luigi Orione, San Luigi Orione, mi sto innamorando. Straordinario. Tu lo vedi in fotografia, ha due occhi furbetti, intelligenti. Ma lo vedi sto bel testone, sto bel crapone da contadino. Suo padre era un manovale, ha detto alla pulizia delle strade, un selciatore. E cosa ha fatto quest'uomo qui? Cosa ha fatto? Ho letto la vita di Santa Caterina, muore a 33 anni, ha girato l'Italia, ha girato l'Europa per aria, patrona d'Italia e patrona d'Europa. I santi, amici, i santi convertono. E se noi non siamo santi, c'è la seconda strada, una intensa preghiera. Io per questo mio paesino, per questa mia comunità, che lo sa il Signore, quanta fede ha, lo saprà Lui, io non dico niente. Io vedo la Chiesa vuota, io vedo voi che siete qui generosi, ma no? 3.000 abitanti. O Spirito Santo, vieni su questa mia parrocchia come una nuova Pentecoste. Amici, la preghiera insistente, la preghiera accorata, la preghiera abbondante. Leggevo anche la vita di Padre Pio, a me piacciono i santi, mi rispecchio un po' in loro, almeno col cuore. Dice, ma chi è lei? Sono un frate che prega. Lui si è dato questa definizione. Cari amici, qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò, dice Giovanni, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Coraggio, amici. Quanti siamo? 10? 9? Chiediamo al Padre, nella grazia di Gesù, in questa Eucaristia, manda il tuo Spirito Santo perché susciti uomini santi e perché apra il cuore della gente comune come me, come voi e come i vicini di condominio all'apertura, alla illuminazione dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.